Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Tra gli effetti del cambiamento climatico c'è la riduzione delle precipitazioni nevose, che non solo non accumulandosi sui ghiacciai durante l'inverno mette a rischio l'approvvigionamento idrico estivo, ma anche il turismo invernale. Come è noto, infatti, i tradizionali cannoni da neve possono rimediare, ma solo se le temperature vanno abbastanza sotto zero da permettere che l'acqua nebulizzata, una volta sparata in aria, si congeli prima di toccare terra. Ma anche queste condizioni termiche sono sempre più rare, e quindi anche questa soluzione è via via sempre meno applicabile. Ebbene, a Cavalese, dove vi portiamo questa sera con Smart City, si trova più o meno a metà strada tra Trento e Bolzano, si sta quindi sperimentando una tecnologia che permette di produrre neve anche sopra gli zero gradi, a partire da che cosa? Da uno scarto termico. Lo scarto termico della locale centrale di teleriscaldamento a biomassa, che è gestita dalla società Bioenergia FIEM, di cui, per farci raccontare di questo progetto, abbiamo in linea l'amministratore delegato, il dottor Andrea Ventura. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, lì alla centrale di teleriscaldamento di Cavalese avete una lunga tradizione, diciamo, di gestione degli scarti. E diciamo anche questa nuova iniziativa si inserisce lì dentro. Allora, se ci fa un po' il quadro da questo punto di vista. Ma Cavalese si occupa di scarti da ormai 20 anni. Noi lavoriamo gli scarti che provengono dai nostri boschi, dalla filiera del legno. La Valle di Fiemme è una valle immersa in un patrimonio forestale magnifico, fatto prevalentemente di abete rosso. E dall'abete rosso la filiera del legno ci dà del pregiatissimo combustibile per produrre l'energia termica attraverso le caldaie a biomassa che noi gestiamo da ormai 20 anni, e per riscaldare l'abitato di Cavalese. Però questo processo produce altri scarti a sua volta, e voi ragionate anche su quelli. Assolutamente sì, il processo di combustione genera del calore latente che è presente all'interno dei nostri fumi in emissione, e proprio questo calore latente è stato recuperato attraverso un progetto industriale specifico, un progetto che mira al recupero di questa energia sotto forma di vapore da utilizzare poi per diversi altri usi. Un uso molto interessante che abbiamo attivato da qualche mese è proprio attraverso lo sfruttamento dello scarto, e quindi attraverso il vapore di scarto, estrarre dagli abeti rossi della Val di Fiemme dei preziosissimi oli essenziali. L'abete rosso... Dagli aghi in particolare, vero? Dagli aghi dell'abete rosso noi riusciamo ad estrarre, proprio utilizzando lo scarto e il vapore, questo prodotto che può essere utilizzato sulle filiere della cosmetica e del benessere. Ma però va avanzava ancora qualcosa. Ci avanzava sempre il vapore nel periodo meno adatto alla produzione di questi oli essenziali, il periodo invernale. E da qui è nata una collaborazione con la De Maclenco, che è un gruppo altoatesino che ha sede a Bolzano, in Alto Adige, per la produzione di neve programmata, che sono stati, diciamo, avviati a ricerca, e a ricerca tecnologica molto molto approfondita attraverso un finanziamento europeo sui fondi Horizon 2020. E partendo dal lavoro fatto da una startup che è sempre di Cavalese, poi li sentiremo brevemente, è nata questa iniziativa, che quindi fa uso di vapore compresso che a voi avanza, diciamo, dal vostro ciclo di produzione. Questo vapore compresso viene poi utilizzato per alimentare una macchina che produce neve, è corretto? Ecco. È esattamente in questi termini. Noi abbiamo uno scarto di vapore nel periodo invernale, noi diamo questo scarto di vapore che ha una temperatura di 140 gradi e a 3,5 bar di pressione, e la startup, che si chiama Neve Perenne, sì, lavora questo vapore, questo vettore energetico di scarto, lo sottolineo, di scarto, per produrre una neve in forma autenticamente innovativa. Ecco, il sistema funziona fino a 16 gradi, anche se non so quanto sia saggio spargere neve a 16 gradi di temperatura, però funziona sopra lo zero. Quanta ne producete? È ancora una macchina sperimentale? Ma la macchina localizzata a Cavalese oggi è una macchina sperimentale che produce circa 2 metri cubi ora di neve. E per cosa verrà utilizzata? Neve che sarà utilizzata per innevare parte della zona d'arrivo della prossima marcia longa di Fiemme Fassa, che si terrà nell'ultima domenica di gennaio. Va bene, grazie, grazie e in bocca al lupo per la vostra iniziativa. Grazie a voi, molto gentili della conversazione. E dunque l'iniziativa di cui stiamo parlando nasce dal progetto di una startup sempre di Cavalese, startup che si chiama Neve Perenne, ma scritto XN, ed è dal suo fondatore, l'ingegner Francesco Besana, che andiamo per farci raccontare qualcosa di più di questa tecnologia. Buonasera Besana. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, voi partite da del vapore ad alta pressione, ad alta temperatura e producete neve. Come si fa? Praticamente noi utilizziamo il vapore generato dalla centrale di teleriscaldamento, dei fumi di scarto, per creare del vuoto all'interno di un serbatoio. Questo vuoto ci permette di far bollire l'acqua a 0 gradi. Ecco, questa è una cosa che pochi ascoltatori sanno, magari, ma la temperatura di ebollizione dipende dalla pressione. Quando si va vicini al vuoto, l'acqua bolle praticamente a 0 gradi. Giusto. È proprio quello che anche succede in montagna quando si è in alta quota, che l'acqua bolle a temperature molto più basse. La pasta viene male, per esempio, no? Giusto, giusto, viene cotta male. E quindi noi, arrivando in questa condizione di praticamente quasi vuoto assoluto, raggiungiamo questo punto triplo, chiamato tecnicamente, e l'acqua bolle a 0 gradi. Quando l'acqua bolle, praticamente per passare da fase liquida a fase gassosa, assorbe calore. Questo calore viene ceduto all'acqua che gli sta attorno e quindi l'acqua che gli sta attorno si ghiaccia. Si ghiaccia ed ecco come si produce a partire da vapore caldo la neve. Grazie, grazie Besana. Di niente, si figuri, grazie a voi. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre a domani. A voi tutti una buona serata.